Credo che il pubblico si sia divertito, ha visto una squadra che ha lottato dall'inizio alla fine con un avversario molto molto forte. Vedrete che gli Stati Uniti daranno fastidio anche a quelle che sembrano più blasonate come squadra. Niente, ora analizzeremo la partita, cominceremo a studiare la Romania, è quello che ci siamo prefissati, partita dopo partita. Poi credo che davanti a questa piscina possiamo battere chiunque, lo sappiamo. L'esordio è sempre una partita un po' complicata, specialmente per chi è all'esordio in una manifestazione così importante. È giovane, ha pochissime presenze in nazionale. Insomma, qual è il rimpianto che ti rimane dopo questo 9-8? Ma i rimpianti io me li sono già dimenticati, perché è una competizione talmente lunga che bisogna riposare e pensare alla partita successiva. Sicuramente analizzeremo dove abbiamo sbagliato, ma ripeto, grande merito va agli Stati Uniti, che non hanno sbagliato praticamente niente. Avevamo detto di non prendere gol a uomini pari, non li abbiamo mai presi. Abbiamo preso solo gol in inferiorità numerica in questo sport. Quando riesce ad avere un gruppo come hanno loro, che anni che lavora, hanno automatismi che sicuramente ancora noi non abbiamo, perché lavoriamo insieme da pochissimo tempo, insomma, viene fuori poi.